A bordo campo di Dario Ricci. Ben ritrovati da Dario Ricci. Beh, non possiamo dire certo che l'estate 2012 ci abbia fatto mancare le emozioni dello sport. Basti citare gli europei di calcio di Polonia e Ucraina e tutto quello che abbiamo vissuto a Londra 2012. Ma lo sport, lo sappiamo, regala emozioni anche attraverso i ricordi, i grandi personaggi del passato, le grandi avventure sportive che diventano leggende. Allora oggi facciamo insieme un viaggio nel grande calcio degli anni 80, dall'avventura italiana di un campione come Zico, allo scudetto della Roma di Nils Liedholm, fino a quello ancora più sorprendente del Verona di Osvaldo Bagnoli, per arrivare al primo tricolore del Napoli targato Diego Armando Maradona. Un viaggio nella storia del calcio, certo, ma un viaggio soprattutto nella storia di ognuno di noi. E allora partiamo subito con le prodezze e i colpi da maestro di un grande brasiliano, Arthur Antunes de Coimbra, detto Zico. Quasi vuoi dare un samba alla bellezza, hai bisogno di un poco di tristezza, hai bisogno di un poco di tristezza. Aveva il dolore e la sconfitta negli occhi, Arthur Antunes de Coimbra, per tutti gli appassionati di pallone più semplicemente Zico, quel pomeriggio del 5 luglio 1982. Stadio Sarriá di Barcellona. L'Italia, trascinata da Paolo Rossi, butta fuori dal mondiale spagnolo il favoritissimo Brasile di Tele Santana e si invola verso il titolo. Per i campioni in maglia verde-oro la delusione è cocente. La stella di Zico è stata spenta dall'asfissiante marcatura di Claudio Gentile, che a O Mior, come veniva chiamato il numero 10 brasiliano, ha lasciato anche il ricordo di una maglietta strappata. Eppure sono proprio i grandi campioni brasiliani ad accendere l'estate calcistica del 1983. Cerezo firma con la Roma campione d'Italia, ma a far saltare il banco è l'Udinese del presidente Lamberto Mazza e del general manager Franco Dalcin, che strappa al Flamengo proprio Zico. In Friuli la gente entusiasta scende in piazza. I bianconeri, sesti nel campionato dell'anno prima, cominciano a sognare in grande, grazie a un colpo di mercato che rientra in una strategia ben precisa, come spiega Franco Dalcin. Zico aveva il contratto in scadenza, c'era un po' di tranquillità, cioè non c'era grande concorrenza in Europa, non c'era l'effervescenza che c'è oggi, e quindi da questa situazione nacque l'idea che con un'operazione intelligente potevano portare Zico. Rientrava in un progetto mega galattico con la Zanussi alle spalle. Non era un problema di liquidità, era un problema di logica, che l'investimento non doveva essere superiore alle capacità poi di coprirlo da parte dell'Udinese Calcio. Buona con Galinho, che triple piazzata su Donizetti! E il futebol è un talento do Galinho! Dal Maracanã allo Stadio Friuli, da Rio de Janeiro a Udine, dalla leggendaria maglia del Flamengo, ha una storia tutta da scrivere con la maglia bianconera. Zico è pronto a far gridare di gioia un'intera regione, come già ha fatto con le sue gemme in tutto il Brasile. Zico! Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più. I bianconeri sono una formazione ricca di ottime individualità. In porta l'affidabile Brini, la difesa ruota sulla classe di un altro brasiliano, Edinho. A centrocampo due giovani di belle speranze, il mediano Gerolin e l'ala destra Massimo Mauro. A dirigere l'orchestra Franco Causio, da due anni in Friuli dopo una vita passata alla Juventus. E in attacco il fiuto del gol di un altro esule dalla Torino bianconera, Pietro Paolo Virdis. Zico è la classica ciliegina sulla torta, come racconta lo stesso Gerolin. Stavamo facendo bene, avevamo una certa base di giovani molto bravi. Piano piano mettevamo sempre qualche tassello ogni anno in più. C'è stato l'arrivo di Causio, che insomma aveva 32 anni e sicuramente era magari un po' là con gli anni, però era un grandissimo campione e dopo due anni è andato ai mondiali comunque. C'è stato l'acquisto di Mauro, che era un giovane molto forte, uno dei più promettenti da allora, e quindi ogni anno mettevamo appunto qualche tassello per migliorarci. Certo che l'acquisto di Zico è stata la ciliegina sulla torta. Io mi ricordo allora che inconsciamente eravamo anche tutti più carichi. Oh, galera! E aí que moro o perigo, hein? E manda o Zico desperta, desperta. L'11 settembre 1983 l'Udinese targata Zico e allenata da Ferrari fa il suo esordio in campionato a Marassi contro il Genoa ed è subito in presa. I friulani vincono 5-0 con un gol di Mauro, una doppietta di Virdis e due gol di Zico. Il ricordo dello stopper di quel Genoa, Nazareno Canuti. Allora c'era Simoni come allenatore e ha deciso di dare la marcatura a questo testone, molto veloce, scattante, rapido, sull'agonismo e sulla velocità, ha contato una volta di più la tecnica. A parte il gol su punizione da fermo, così, poi aveva fatto un altro gol su azione che gli ha fatto già una finta che allora se ne vedevano poche già col doppio passo. In quell'occasione mi ricordo il mio collega lì, si è fatto male anche al ginocchio, è stato fuori per un mese. Diciamo che poi tutti gli allenamenti lo scherzavamo dicendogli che arriva Zico e gli fa la finta. Sono solo i primi gioielli che il brasiliano regala al pubblico friulano e in tutti gli stadi d'Italia. Splendida la rete che Zico mette a segno contro la Roma all'ottava giornata, il 6 novembre 1983, su perfetto lancio di Causio. Ma quell'anno i gol da ricordare nella memoria del barone non mancano certo. Quello è stato un bel gol, però ci sono stati quelli gol di San Siro con la rovesciata che ha fatto e altri su punizione. In particolare io mi ricordo a parte il 3-3 quando mi ha fatto a San Siro il gol su rovesciata sul mio passaggio, poi mi ricordo un particolare a Catania che si vinceva già 1-0 sulla punizione, sia a Catania che anche a Genova. Sulla punizione dal limite dell'area c'erano 30-40 mila persone che gridavano solo Zico, Zico, Zico prima di che tirasse la punizione e lui immancabilmente fece gol sia a Catania che a Genova. L'Udinese diventa cliente fisso al banchetto dell'alta classifica e Zico è il punto di riferimento della squadra e il simbolo del rapporto tra la società e i suoi tifosi. Io sono stato molto accolto dalla gente dei Friuli, dei Udini. Penso che in campo ha dato una buona risposta. La nostra squadra nel primo anno giocava un grande calcio, c'era grandi giocatori come Causio, come Virdes, come Edinho, già nove ragazzi che stavano arrivando come Di Agostini, Gerolin, Miano, Mauro, giocatori che dopo sono arrivati in grandissime squadre. I più giovani guardano con rispetto e ammirazione al grande numero 10 brasiliano, Massimo Mauro. Oltre ad essere un fuori classe, era anche diciamo un uomo squadra dentro lo spogliatoio ed era un trascinatore a fare le cose giuste per tutti i suoi compagni. Io ricordo la sua serietà negli allenamenti, la determinazione con la quale in allenamento faceva capire a tutti i compagni di squadra che c'era il tempo per scherzare, un tempo per fare le cose serie, quando ci si allenava era il tempo di fare le cose seriamente. Io che ero un ragazzino a Udine, da quell'esempio, da quella maniera di allenarsi, capii molto, insomma. A incantare erano soprattutto le incredibili parabole che Zico riusciva a disegnare nelle punizioni dal limite, tanto che molti, vista l'altissima percentuale di realizzazione, le consideravano quasi dei rigori. E il barone Causio non ha dubbi nel togliere anche quel quasi. No, quasi, erano dei rigori, perché lui, la sua forza, io mi ricordo che quando è venuto qui ad allenarsi, anzi quando ci allenavamo durante la settimana, fino all'allenamento, tutti quanti andavano via, io, lui e Vigno ci si fermava ancora mezz'ora, anche un'ora delle volte a calciare calci d'angolo, punizioni, palle inattive, che per appunto per allenarsi. No? Il sudore in allenamento si trasformava in geniali preziosismi in gara. Un altro aneddoto raccontato da Nazareno Canuti nella gara di ritorno tra Udinese e Genoa che i friulani vinsero 3-1. Poi al ritorno invece c'è stato un episodio con Onofri, che era il capitano libero del Genoa allora, e mi ricordo che sulla la linea del corner gli ha fatto un giochino, ha fatto passare il tacchetto, la palla alle spalle e poi se l'è ripresa passando dai fotografi. Io no, l'ha preso e l'ha buttato giù, no? Gli ha fatto fallo. E l'arbitro l'ha anche ammonito. Mi ricordo che io ero lì vicino e Onofri allora gli ha detto all'arbitro, fa, ma dopo una figura di cacca che ho fatto mi ammonisce anche, fa, ma deve ammonire lui che ha fatto una roba del genere che non esiste, no? Gli ha detto. Sì, ha detto che doveva essere ammonito. Dico perché ha fatto una roba che non l'aveva mai vista lui. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Fino alla 20ª giornata l'Udinese è quarta in classifica, ma a bloccare la corsa dei bianconeri più che la fuga della Juventus in testa alla classifica è l'improvviso crollo del progetto economico-finanziario che era alle spalle della società. Franco Dalcin. Cosa è successo? Che Mazza ha dovuto lasciare la Zanussi e noi siamo rimasti senza la Zanussi alle spalle. E il progetto improvvisamente si ridusse a un progetto di una persona sola, che era il cavalier Mazza, che mise allora grande entusiasmo, grande volontà, ma era diverso. Un conto avere Mazza presidente della Zanussi e quindi con tutta una potenzialità alle spalle di azienda, no? E avere una persona sola con la quale fare i conti tutti i giorni. Era l'inaspettata fine di un sogno. Senza risorse economiche, il gruppo messo insieme dal club bianconero era destinato a sfaldarsi. Tutta l'amarezza del Galigno. La nostra squadra ha avuto un problema interno, il problema del direttore generale con il presidente. La nostra squadra è stata abbandonata nel momento importante del campionato, quando eravamo in terzo posto in girone di ritorno, e purtroppo la squadra è stata smantellata il secondo anno e mi dispiace molto, mi è dispiaciuto molto per la gente di Udine. L'Udinese scivola fino al 9° posto finale. Ad amareggiare il campione brasiliano non solo lo sfaldarsi del progetto del club friulano, ma anche, come ricorda Massimo Mauro, una strana vittoria del Napoli contro l'Udinese a fine campionato. Un 2-1 che garantì ai partenopei la salvezza e che fece svanire le speranze bianconere di disputare la Coppa UEFA. Si respirò un clima molto strano in quella partita, tanto è vero che il Napoli ebbe 2 rigori. Insomma, quella partita fu una bruttissima pagina per il calcio italiano. Non c'era niente da denunciare, ma c'era un clima davvero strano. Insomma, però sa, uno per poter dire alcune cose deve avere prove, quindi quello fu un clima stranissimo e purtroppo molti si adeguarono a quel clima. La partita fu davvero, sembrava già scritta prima il risultato era già scritto prima di giocarla. Insomma. Zico ebbe una reazione durissima a quella partita e credo che con quella partita lui smise di pensare al calcio italiano anche per il suo futuro, insomma, non era più molto contento di rimanere in Italia a giocare a calcio. L'anno successivo gli infortuni e i problemi fiscali derivanti dal suo trasferimento fanno tramontare l'astro del campione brasiliano. Il ricordo di Manuel Gerolin. L'anno dopo non era più al 100%, mi ricordo forse proprio calciando una punizione si fece male. Da lì non si è più ripreso, poi ha avuto problemi appunto fiscali e preferì andarsene via. Sentivo chiacchierare, ha deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Causio all'Inter, Virdis al Milan e poi Mauro alla Juventus e Gerolin alla Roma. Partito Zico in 2 stagioni, il gruppo bianconero sarà depredato dalle grandi. Ma il ricordo di quei campionati resta forte nella testa e nel cuore di chi, come Gerolin, in Friuli è tornato per costruire la propria carriera di dirigente calcistico. Rimane che era un grande gruppo, che ci siamo divertiti, che i ricordi belli rimangono anche se passa il tempo, però insomma siamo ancora tutti nel mondo del calcio e quindi questo si fa ricordare, insomma, di non essere così tanto vecchi. Una voce che diventa un coro, una città, un intero popolo dipinto di giallo-rosso. È l'urlo che sale dalla curva sud dell'Olimpico e che spinge la Roma di Nils Liedholm all'inizio del campionato 1982-83. L'Italia del pallone è ancora inebriata dal trionfo degli azzurri di Berzotta al Mundial spagnolo. Trionfo che era stato anche l'esito di una sfida tutta giallorossa tra il brasiliano Falcao e Bruno Conti, bandiera romanista che il grande Pelé non aveva esitato di definire il migliore giocatore della rassegna iridata in Spagna. Per la piccola grande ala nata a Nettuno, gli insegnamenti ricevuti alla scuola del barone Lidl erano stati il trampolino di lancio. Beh, direi che tutto sommato vincere un mondiale non è da tutti i giorni, è stato un discorso portato avanti, ringraziando la Roma, perché tutto sommato io dopo i 2 anni, la parentesi di Genoa, ho avuto la possibilità di fare dei campionati buoni e arrivare in nazionale. Dalla spedizione spagnola era invece rimasto escluso un altro idolo della curva romanista, quel Roberto Pruzzo, pure capocannoniere degli ultimi 2 campionati, rispettivamente con 18 e 15 gol. La mia storia con la nazionale è stata fatta sempre di gare, di difficoltà, di compressioni. Credo che comunque giocare nella Roma in quegli anni non mi avvantaggiava di sicuro. Poi con gli anni dopo è stata, come dire, un'evoluzione anche sotto questo aspetto, ma giocare in nazionale ai tempi del blocco Juve non era facile. E proprio alla Juventus, campione da 2 anni, vanno i favori del pronostico anche per l'annata 1982-83. Trapattoni può contare sui campioni del mondo Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli e Paolo Rossi, capocannoniere del Mundial, oltre alla classe del polacco Boniek e del francese Platini, 2 delle stelle più splendenti del Mondiale iberico. Ma anche la Roma non è stata a guardare. Seconda nell'80-81 alle spalle dei bianconeri, solo per il discusso annullamento per un dubbio fuorigioco di un gol di Turone nello scontro diretto a Torino. Terza nell'81-82, la società del presidente Dino Viola si è rinforzata con l'arrivo dalla Fiorentina del forte difensore Pietro Vierchowod, dal Milan del laterale Aldo Maldera e poi Iorio, Nappi, Valigi e dall'Inter il centrocampista austriaco Proasca, preziosa e silenziosa anima del centrocampo, come ricorda Pruzzo. Non era un gregario Proasca, Herbert era un grande, come lo erano tutti più o meno in quella squadra, e qui direi che lui ha dato un grande contributo di esperienza e di qualità, perché veniva già da Milano dove aveva vinto e aveva già una grande esperienza in Italia. La sfida alla Juventus era lanciata, non per vendicare gli sgarbi del passato, ma per affermare una nuova supremazia nel calcio italiano. Quello messo a punto da Nils Liedholm è un meccanismo tattico perfetto, che si basa sul controllo di ogni parte del campo e sul possesso palla, secondo i più puri dettami del gioco a zona. Il pensiero era quello di inculcare nei ragazzi è meglio avere la palla noi che gli altri, e non è poco. E allora facendo così andava morale su molto, perché tenevamo sempre la palla noi, e questo ha fatto che la squadra si sono sentiti molto sicuri. In porta Tancredi ha una sicurezza, la difesa fa perno sulla velocità di Vierchowod, Nela, Maldera e sulla regia occulta del grande capitano Agostino Di Bartolomei. I tanti piedi buoni a centrocampo fanno il resto, come ricorda Bruno Conti. Gli Ancelotti, Proasca e Falcao, gente che sapeva interpretare il calcio alla grandissima, bravi in fase di interdizione, bravi nel costruire, né andare in gol, perché Falcao era molto bravo ad inserirsi da dietro. È chiaro che poi o io, Maldera o Nera, che sia, arrivare sul fondo e mettere dentro questi palloni, sapere che c'era uno bravissimo come Roberto Pruzzo, per noi andava a finalizzare quello che era il nostro lavoro, per cui è stato un grosso gruppo, un grosso collettivo. La Juventus a sorpresa parte con il piede sbagliato, perdendo le prime 2 trasferte con le neopromosse Sampdoria e Verona. I giallorossi invece partono di slancio e arrivano al primo scontro diretto, il 24 ottobre 1982 a Torino, con 3 punti di vantaggio in classifica sui rivali. Passata in vantaggio la Roma e siamo al 5° minuto del primo tempo. Chierico porta in vantaggio la Roma, ma Platini e Scirea rovesciano il risultato a favore della Juventus. La corsa verso il tricolore è ancora lunga e piena di insidie. Conto su di te. Ma Nils Liedholm è riuscito a creare uno spogliatoio forte, compatto, capace di far fronte alle difficoltà di un campionato lungo e difficile. Essenziale la piena sintonia che unisce il tecnico svedese con il presidente Viola, come sottolinea Conti. Viola pian piano, pezzo dopo pezzo, è riuscito a costruire una grande squadra, e in quegli anni siamo stati una squadra che abbiamo dato molto fastidio alla Juventus e alle grandi squadre. Qui direi che dagli Ancelotti, Proasca e Falcao, Di Bartolomei, io penso che era un gruppo stupendo e portato avanti da un grande maestro che era Nils Liedholm. Il barone conosceva bene i suoi uomini, i leader del gruppo erano noti, il mister svedese aveva trovato i suoi alter ego in campo. Non non avevo i favoriti. Falcao era molto somigliava a me nel gioco e lui lo sapeva, e così anche senza essere capitano lui diceva in campo tutto quello che, perché Agostino di Bartolomei, che era un ragazzo stupendo, delle volte era un po' brusco quando doveva dire qualche cambiamento. E dal punto di vista tecnico il prediletto era uno, quel Bruno Conti, tutto dribbling e fantasia. Il mister, prima di un esercizio, quando si lavorava sui fondamentali, gli diceva: Bruno, fai vedere questo, e poi gli altri che lo facevano, per cui ha visto a livello tecnico quello che riuscì a fare, perché è stato un grandissimo maestro per tutti, e mi chiamava sempre a me per primo per fare vedere questo esercizio. Ma ognuno portava il suo contributo alla causa dello scudetto. C'era Falcao, c'era Bruno Conti, c'era Di Bartolomei, che era un capitano molto saggio e collaborava molto con me. Ma tutti i ragazzi erano utili, perché fortunatamente sono riuscito a trovare i posti giusti per ognuno. Il collante di tutto, con la sua lingua tagliente e ironica e la sua passione da tifoso vero, il presidentissimo Dino Viola. Ricordo tutto con affetto, perché io penso che vedere Viola tutti i giorni presente a Trigoria, negli allenamenti, in qualunque problema c'era, vedere in Viola durante le partite, prima di un riscaldamento, in questo corridoio dove si faceva riscaldamento e lui con la sigaretta in bocca, essere vicino sempre a noi, venire col pullman, per cui penso che è stato un presidentissimo, vicino sempre a questa squadra, e è stato un grandissimo presidente, anche perché non potrò mai dimenticare che questo presidente chiedeva sul pullman i risultati del settore giovanile, della primavera, di altre squadre, per cui è stato un presidente presente in tutto e per tutto. Il 6 marzo 1983 Roma e Juventus si ritrovano all'Olimpico per la gara di ritorno. I giallorossi guidano la classifica con 31 punti, 5 in più dei bianconeri distratti dall'inseguimento alla Chimera, Coppa dei Campioni. Stavolta è Falcao a portare in vantaggio la Roma, ma poi si ripete il copione dell'andata. Finisce 2-1 per la Juventus grazie ai gol di Platini e Brio a 4 minuti dalla fine. Il campionato è riaperto. Ma il 27 marzo 1983 accade l'incredibile. Mentre i giallorossi strappano un pareggio per 2-2 a Firenze contro la Fiorentina, la Juventus cade nel derby con il Torino. Gli uomini di Trapattoni sono in vantaggio per 2-0 al 66esimo, ma in 6 minuti dal 70esimo al 76esimo subiscono i gol di Dossena, Bonesso e Torrisi. 3-2 per il Torino e la Juve dice addio al tricolore. A sancire il trionfo giallorosso l'8 maggio 1983 è il pareggio per 1-1 a Marassi contro il Genoa. Il gol, ironia della sorte, di Roberto Pruzzo, ligure di Crocefieschi ed ex genoano. Il racconto al microfono della RAI di Enrico Ameri. Attenzione, Roma in vantaggio con Pruzzo. Pruzzo ha colpito il pallone di testa e ha intaccato sulla destra di Martina. Per 3 volte, si può dire, la Roma ha cercato la via del gol con prepotenza in questi ultimissimi minuti. Ed è ancora la voce di Ameri a descrivere gli ultimi istanti di quella gara e il trionfo giallorosso. Qualche tifoso accenna ora a entrare sul terreno di gioco, subito è ripreso dal compagno e trascinato immediatamente ai margini del campo. Ecco un intervento di Chiodini, uno scambio sul fondo di destra. Vediamo che in questo momento i tifosi accennano a entrare sul terreno di gioco, ma la partita ancora non è finita. E allora precipitosamente tutti si ritirano dal punto dove erano partiti. È un momento eccezionale, gentili ascoltatori, che non abbiamo mai descritto nel corso di nessuna partita, di nessuna conclusione, di nessun campionato di Serie A che abbiamo descritto in circa 23 anni di attività in questa trasmissione. Il calcio di un minuto, è la fine, la Roma è campione d'Italia, sono le 17:45, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo. È finita in pratica la fantastica galoppata dei giocatori giallorossi, che sono travolti in questo momento dalla palla. Il 15 maggio 1983 i giallorossi festeggiano in un olimpico in delirio il secondo scudetto della loro storia, dopo quello della stagione 1941-42, battendo per 3-1 il Torino. Per la Juventus ci sarà la consolazione della Coppa Italia, ma soprattutto l'amarezza della Coppa dei Campioni sfumata nella finale di Atene contro l'Amburgo. quella stessa coppa che i giallorossi di Lidolm perderanno in modo ancor più rocambolesco ai calci di rigore nella finale dell'Olimpico, il 30 maggio 1984 contro il Liverpool. Sarà quello il passo d'addio della grande Roma di Nils Liedholm. L'amarezza di Roberto Pruzzo. La squadra era abbastanza anziana, ha cominciato a perdere un paio di giocatori importanti e non ha saputo e potuto rimpiazzarli. Credo che questo sia stato il motivo per cui la Roma poi è finita sotto questo aspetto. Ogni anno che passava diventavamo più vecchi, tra virgolette, e i cambi non c'erano. A 10 anni esatti da quella sera, il 30 maggio 1994, la bandiera di quella squadra, Agostino Di Bartolomei, si toglierà la vita. Il cuore della Sud batte ancora per lui. Doveva essere il campionato delle grandi stelle, il 1984-85. La più brillante è quella di Michel Platini, da 2 anni capocannoniere del campionato, trascinatore della Juventus, campione d'Italia in carica e vincitrice della Coppa delle Coppe, e re d'Europa con la sua Francia, che nell'estate aveva vinto in casa il titolo di campione d'Europa proprio nel segno di Roi Michel. Ma il calciomercato aveva portato in Italia tanti altri campioni. I brasiliani Zico e Cerezo erano arrivati nell'estate 1983 e subito si erano imposti con le maglie di Udinese e Roma, mentre nell'84 sbarcano nel nostro torneo anche Socrates nella Fiorentina e Junior al Torino. E poi gli inglesi Wilkins e Atley che vestono la maglia del Milan, mentre la Milano nerazzurra sogna per l'arrivo di Rummenigge dal Bayern Monaco. E 70.000 tifosi napoletani assiepati al San Paolo salutano con un'ovazione i primi palleggi italiani di Diego Armando Maradona, strappato da Ferlaino agli spagnoli del Barcellona. Conta sì il denaro, altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Conta sì il denaro, altro che chiacchiere. Al banchetto del calciomercato ha partecipato, con la consueta oculatezza, anche il Verona del presidente Guidetti, pronto a seguire le indicazioni del direttore sportivo Mascetti e del tecnico Osvaldo Bagnoli. I veneti tornati in A nell'82-83, dopo un quarto e un sesto posto, sono pronti per il grande salto, grazie a un gruppo costruito su molti buoni giocatori scartati dalle grandi, come spiega Pietro Fanna, 3 scudetti con la Juventus prima di arrivare in gialloblu. Eravamo dei riciclati da altre squadre che il Verona ha saputo, la dirigenza, Bagnoli, Mascetti, tenere ben stretti in quegli anni, che in pratica lo svincolo non era ancora in atto, quindi è stata anche quella un grande merito soprattutto della società per poterci tenere e non venderci. E quindi non eravamo campioni, però eravamo tutti dei buoni, ottimi giocatori. Sempre dalla Torino bianconera era arrivato Beppe Galderisi, piccolo e scattante attaccante, chiuso però dalle tante stelle della squadra di Trapattoni. Un inizio esaltante, perché io a 16-17 anni ero già, anzi a 15 anni ero già con la prima squadra, a 16 anni avevo esordito in Coppa Italia con la Juventus, però dopo quella stagione fantastica gli stranieri diventarono 2, dopo Brady arrivarono Platini e Bonic, si rientrò la squalifica di Paolo Rossi, anche Bettega cominciò a star bene, perciò c'era bisogno assolutamente per un ragazzo giovane con tanta voglia di dimostrare di giocare, e Verona fu la piazza che Boniperti scelse per me. Sul mercato Mascetti e Bagnoli avevano scelto 2 stranieri poco noti ma di grande sostanza. Dal Kaiserlautern era approdato sulle sponde dell'Adige Hans-Peter Briegel, colonna della difesa della nazionale tedesca, mentre dal Lokeren era arrivato il potente attaccante danese Preben Elkjær Larsen, messosi in luce proprio negli europei francesi. Sono arrivato a Verona insieme con Briegel, e questa squadra era già una buona squadra, era una squadra che dove i giocatori hanno giocato insieme già diversi anni e forse ha mancato solamente un po' di, non so, un po' di forza, un po' di esperienza. E senz'altro è andato bene quell'anno lì. A completare il mosaico l'efficacia di Claudio Garella in porta, l'abilità a centrocampo dei Di Gennaro e l'eleganza del libero Roberto Tricella, prima fonte del gioco di Bagnoli, qui al microfono di Flavio Suardi. È una squadra che cercava comunque sempre in ogni caso di offendere, quindi di cercare di andare a far gol con il minor numero possibile di passaggi, quindi la verticalizzazione appena fosse possibile effettuare veniva cercata sulla prima punta con tutti gli altri che a turno si proponevano. La vita adesso nel pomeriggio. Il 16 settembre 1984, alla prima giornata di campionato, il Verona ospita il Napoli. È l'esordio in Italia di Maradona. Tutti si aspettano le magie del Pibe d'Oro, ma a stupire la banda Bagnoli. Fanna inventa assist, Brigel trafigge Castellini e manda in estasi il Bentegodi e il radiocronista di Radio Adige. Amici sportivi veronesi, il nostro Verona sta ora attaccando, si avvia a battere questo secondo calcio d'angolo. Ecco Pierino Fanna la battuta in proseguita della linea della bandierina della faccia destra. Si va sistemando la palla, grande affollamento nell'area di rigore del Napoli. Anche Brigel naturalmente in fase offensiva, col pallone profondo, Brigel, rete! Rete! Il vero Pibe d'Oro è Nanu Galderisi che firma il raddoppio. Rangon sulla fascia, impavida, avanza, trattiene la palla, stringe verso il centro, appoggia Di Gennaro sulla tre quarti, distende la falcata, cerca il cross, poi ci ripensa, appoggia per Bruni, Bruni, appoggia per Di Gennaro, miracolo di Castellini, Galderisi, rete! Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Maradona è fra noi, Nanu Galderisi. Bertoni accorcia le distanze, ma ci pensa Di Gennaro a siglare il 3-1 finale. Fanna pronto alla battuta di questo calcio di punizione, intasatissimo ora l'area del Napoli, tutti i giocatori si spostano da una parte all'altra, ecco Fanna, rete! Di Gennaro, Di Gennaro, Di Gennaro, olè! Comincia così la cavalcata trionfale dei gialloblu. Il 7 ottobre 1984, alla quarta giornata, i veneti strappano lo 0-0 a San Siro contro l'Inter. La domenica successiva al Bentegodi è di scena la partitissima contro la Juventus. L'ex Galderisi consuma la sua vendetta contro la vecchia signora e sigla l'1-0. E all'81esimo Elkier segna un gol da leggenda, infilando tacconi dopo aver perso una scarpa. E quelli che stavano preparando il monumento per Galderisi in Piazza Bra possono costruirgliene uno vicino, ci vorrà un po' di pietra in più per il grande, grandissimo Claudio Garella, che ha impedito alla Juventus di giungere ad un pareggio che sarebbe una beffa per il Verona. Ma ora c'è Elkier che supera Pioli, Elkier, Elkier in area, Elkier in area, rete! Rete! C'è poco da dire, ho perso la scarpa, era davanti al Polcieri solo e non c'era altro da fare di provare almeno di tirare e è andato bene. Il Verona, amici sportivi veronesi, è la miglior squadra d'Italia. Preben, Elkier, Larsen. Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va. Le grandi del campionato non riescono a contrastare la fuga in testa alla classifica dei gialloblu di Bagnoli. La Juventus vuole la Coppa dei Campioni, ma la troverà nel modo più amaro, nel sangue della notte dell'Aizel. Il Milan degli inglesi procede a strappi. A Udine il Verona fa l'impresa. Avanti di 3 gol i veneti vengono raggiunti sul 3-3 dai bianconeri guidati da Zico, ma Elkier e Brigel hanno la forza di firmare il clamoroso 3-5 finale. L'ultima ad arrendersi è l'Inter. Il 17 febbraio 1985 gli uomini di Castagnier passano in vantaggio al Bentegodi con Altobelli, ma ancora una volta è Brigel a firmare il pareggio decisivo. Fanno la battuta della bandierina della faccia sinistra, Elkier sta invitando i nostri a dargli una mano, ecco Di Gennaro che crossa, Brigel, rete! Rete! È Di Gennaro invece a siglare un altro pari importantissimo, quello contro la Juventus a Torino la domenica successiva. E a dare il colpo decisivo alle speranze del Torino di Gigi Radice, altra rivelazione del torneo, è la rete di Pietro Fanna contro la Lazio alla quart'ultima di campionato. È stato un gol, una liberazione, perché venivamo da un periodo di grande tensione, perché vedevamo il traguardo ma non l'avevamo toccato, e quindi la Lazio retrocessa, è venuta a fare una partita alla morte, sono state due espulsioni, una partita difficilissima, e quel mio gol che tengo tuttora al pallone è stata la liberazione. Il pareggio a Bergamo contro l'Atalanta, la penultima, sigla il trionfo finale. Per gli uomini di Bagnoli a scudetto, il primo nella storia della società scaligera. L'emozione di quella festa nel ricordo di Elkjær. L'ultimo giorno, quando abbiamo giocato a Atalanta, a Bergamo contro Atalanta, con quasi tutta la città Verona è andato verso Atalanta, tutti i tifosi sono andati lì. Poi alla sera, ovviamente, 100.000 persone sul Piazza Bra, tutto giallo-blu, è stato magnifico. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Un trionfo, quello dei Veneti, nel nome del grande traghettatore di quella squadra straordinaria, Osvaldo Bagnoli. Ancora Elkjær. Ma una persona molto intelligente, molto equilibrato, tranquillo, però anche con temperamento, ovviamente. Uno che crede nel giocatore, con poche parole ha detto cosa lui aspettava della sua squadra, e noi abbiamo provato a fare quello che vuole lui, però in un ambiente molto tranquillo, insomma. Riservato, schivo, di poche parole Osvaldo Bagnoli, ma pronto ad aprirsi, a lasciarsi andare nello spogliatoio, nel rapporto con i suoi ragazzi, come spiega Galderisi. Una persona molto dolce, molto sensibile, anche se qualcuno pensa che sia tuttora una persona burbera, invece aveva una simpatia e un'allegria tutta sua che noi conoscevamo e apprezzavamo. Ma quella del Verona, oltre a essere stata l'impresa di un gruppo di amici, è stata forse l'ultima pagina della storia di un calcio che oggi non c'è più e che fatica a ritrovare le proprie radici, come racconta Pietro Fanna. I miracoli potevano succedere in quegli anni, perché il calcio non aveva preso questa direzione degli interessi extracalcistici, del business, delle televisioni e degli interessi, diciamo, commerciali. Quindi lo spazio ormai è ridotto a tre squadre per le due o tre posizioni. In questo momento, con il calcio com'è, è impossibile. Maradona, ancora Maradona, Maradona per Burruciaga, scoperti tedeschi, Burruciaga, gol! Argentina, campione del mondo! Era finito così il Mondiale di Messico 1986, con i 90.000 dell'Azteca ai piedi del vero dominatore del torneo, vinto dall'Argentina, Diego Armando Maradona. Suo l'assist per Burruciaga nel 3-2 decisivo nella finale con la Germania Ovest, sua la doppietta nella semifinale contro il Belgio, suo soprattutto il doppio prodigio nella sfida contro l'Inghilterra nei quarti. Prima il gol di mano, quella mano che subito Dieguito ribattezzerà la mano di Dio, a beffare il portiere inglese Shilton in uscita. Poi, quasi a volersi far perdonare dagli dei del pallone, il gol più bello della storia del calcio. 11 tocchi e 6 avversari dribblati in corsa dal centrocampo fino alla porta di Shilton. Incoronato re del calcio mondiale, Diego Armando Maradona aveva ancora un grande obiettivo da raggiungere: portare il suo Napoli ai vertici del calcio italiano e al primo scudetto della sua storia. La storia d'amore tra il Pibe d'Oro e Napoli era nata ufficialmente il 5 luglio 1984. Quel giorno Dieguito, strappato a suon di miliardi al Barcellona, veniva presentato al pubblico napoletano. In 70.000 erano accorsi al San Paolo solo per vederlo palleggiare qualche istante. Il ricordo di quella che 2 anni dopo sarà una delle colonne del primo scudetto partenopeo, Ciro Ferrara. Io ricordo il giorno in cui è stato presentato a Napoli Maradona. In quell'occasione premiò la squadra allievi e in quella squadra c'era anche Ciro Ferrara. E quindi quello è il ricordo più bello che ho con lui, perché da lì è incominciata tutta una serie di cose che ho condiviso naturalmente con Diego e con gli altri compagni. L'arrivo di Maradona era stato il capolavoro della gestione del presidente Ferlaino. Dieguito aveva seguito il consiglio di un altro grande argentino che aveva intrecciato la propria storia con i colori partenopei, il compianto Omar Sivori. È stata un'esperienza, diciamo, interessantissima giocare a Napoli. Io penso che i giocatori di calcio dovrebbero tutti provare quell'esperienza, perché è una cosa realmente importante e bella giocare in quella città e con quella gente. E dire che, leggenda vuole, il Barcellona iniziò la trattativa con i partenopei solo perché convinto di parlare con alcuni intermediari della Juventus. Ma per costruire una squadra attrezzata per puntare al tricolore serviva soprattutto un dirigente esperto e con grande fiuto sul mercato. Ferlaino lo aveva trovato in Italo Allodi, come sottolinea l'emblema stesso della napoletanità di quella squadra, Beppe Bruscolotti. L'ingegner Ferlaino ebbe un grosso intuito nel far venire qui il povero commentatore Italo Allodi, il grande manager penso che abbiamo avuto in Italia, quindi un grosso conoscitore di calcio e quindi un grande uomo principalmente, dove riusciva a prendere fior di giocatori, basta guardare i vari Giordani, Pecci, Renica. Insomma, incominciò a creare, a costruire questo mosaico che poi alla fine riuscì a centrare l'obiettivo. Ma lui ce l'aveva anche detto, mi ricordo perfettamente che disse che nel giro di 2 o 3 anni, 4 al massimo, si doveva arrivare al titolo. Ancora una volta dimostrò quello che erano le sue potenzialità a livello del manageriale. Napoli è mille colore, Napoli è mille paura. All'Odi nell'85 porta a Napoli Garella, portiere già campione d'Italia con il Verona, poi Bagni, Giordano e Renica. In panchina al posto di Marchesi siede Ottavio Bianchi, uomo del nord in apparenza scontroso e di poche parole, ma profondo conoscitore della realtà napoletana, avendo vestito la maglia azzurra per 5 stagioni, dal 1967-68. Alla fine sarà proprio lui una delle carte decisive di quella cavalcata vincente. Indubbiamente, forse conoscendo l'ambiente di Napoli, teneva fin troppo sulla corda, questo forse era l'unico lato negativo, perché poi era uno che il lavoro lo organizzava bene, ci teneva tantissimo al lavoro, quindi puoi immaginare. Chiaramente le pressioni erano tante, ci troviamo in una città dove l'entusiasmo è facile, quindi era giusto contenere, si doveva per forza mantenere alta la tensione e quindi nello stesso tempo non mollare più di tanto, quindi la squadra doveva stare sempre sotto pressione, sotto tensione. Un telaio su cui per la stagione 1986-87 Allodi inserisce l'attaccante Carnevale, la mente del centrocampo Francesco Romano e un giovane mediano che Berzot ha lanciato in nazionale nell'amara spedizione messicana, Nando De Napoli. Ho giocato nell'Avellino, poi ho preso anche come calciatore d'oro, come miglior giovane di Serie A e sono andato in Messico con i campioni del mondo dell'82, c'erano Paolo Rossi, Tardelli, Scirea e per me è stata veramente una grossa soddisfazione. Sono tornato dal Messico e dall'Avellino andai a Napoli e proprio lì il primo anno a Napoli vincemmo lo scudetto. Una scelta di cuore quella di De Napoli, ma anche ispirata dalla presenza del Pibe De Oro. Mi ricordo che feci anche quella scelta perché volevo stare vicino a casa, ma anche perché volevo conoscere Maradona come calciatore e come uomo, e scelsi Napoli, potevo scegliere Milan, la Juve o l'Inter, c'erano tante possibilità, però io ho scelto Napoli. La sfida alla Juventus campione d'Italia, che ha sostituito il partente Trapattoni proprio con Rino Marchesi, è lanciata, grazie a un perfetto mix tra acquisti azzeccati e campioni campani. Io Bagni, Ferrara, Romano, Carnevale, Giordano, c'erano tutti parecchi, veramente parecchi bravi, Zenica, bravi giocatori che abbiamo fatto veramente un grosso campionato. Poi non voglio dimenticare quel gruppo lì, c'eravamo parecchi di Napoli o di Avellino, del sud, ecco, di Salerno, era veramente un gruppo fatto bene, Dalloni. È proprio Maradona ad aprire le danze, con una prodezza che regala il successo in trasferta a Brescia. Seguono un paio di pareggi e poi un'importante vittoria con il Torino, per poi poco dopo sbancare Roma sempre con una perla del Pibe assistito da Giordano. Il 9 novembre 1986 il Napoli sbanca il Comunale di Torino rifilando 3 reti alla Juventus in vantaggio con Laudrup. Pareggia Ferrario, poi segnano Giordano in mezza girata e Volpecina in contropiede. Per Bruscolotti è la gara decisiva. Ma la svolta fu forse a Torino con la Juventus, poi per me era un campo particolare perché in tanti anni di Napoli non era riuscito mai a vincere, insomma, quando andava bene così si strappava un pareggio. Quindi vincere a Torino 3-1 fu una cosa che aveva dell'incredibile per me. Quindi alla fine quella partita valeva doppio, veramente. È la svolta, anche se a Firenze un mese dopo arriva la prima sconfitta stagionale. Il Napoli si riprende alla grande ma trema dopo lo stop di San Siro con l'Inter. Quando Maradona contro il Milan segna una rete da antologia, però si capisce che è quasi fatta. Il 10 maggio 1987, con l'1-1 al San Paolo contro la Fiorentina, il Napoli è campione d'Italia per la prima volta in 60 anni di storia. A narrarne il trionfo dai microfoni della Rai, Enrico Ameri. Sembra quasi giunto il momento di darvi il segnale orario dello scudetto del Napoli, e intanto le note del soldato innamorato. Voi sapete che non è stato mai l'inno di battaglia del Napoli, ma l'inno con cui i giocatori, i tifosi del Napoli hanno salutato le vittorie e le imprese dei loro giocatori, risuona su tutte le gradinate dello stadio San Paolo, che è tutto uno sventolio di bandiere azzurre, tutto lo stadio è azzurro. Signori, siamo giunti al 44 minuto e 41 secondi, quindi mancherebbero, ed è finita! È finita! Il Napoli è campione d'Italia! Dalle tribune del San Paolo scende direttamente negli spogliatoi il coro che incorona il protagonista di quell'impresa. È la festa, la gioia, l'emozione, il delirio. Lo scudetto regala un momento di felicità a una città che soffre di ben più gravi problemi, come spiega il giornalista Luigi Necco, cantore e coscienza critica della Napoli di quegli anni. Napoli, la città, in quel momento non era molto esaltante, anzi, era una Napoli che si avviava verso un declino dal quale la politica la tirò fuori soltanto a fatica dopo 6 o 7 anni. Ma con molta fatica, ci fu un crack addirittura. Era una Napoli che era uscita dai grossi investimenti, delle opere che non furono poi nemmeno fatte, ma era una Napoli che brancolava nell'incertezza, la politica allora non era netta nemmeno per i sindaci che venivano eletti col vecchio sistema, quindi non si votava direttamente per il sindaco. Era una Napoli nella quale si giocavano tutte le partite che avrebbero portato poi a Tangentopoli, una Napoli nella quale si stavano spegnendo le speranze anche dell'Ital Sider, il grande stabilimento siderurgico nel quale i napoletani erano diventati operai alla fine dell'Ottocento. Quindi Napoli vedeva affievolirsi le sue speranze di venire attaccate addirittura all'Europa dell'industria. Il trionfo è completato dalla vittoria della Coppa Italia, il fiore all'occhiello di una stagione storica nel segno di Ottavio Bianchi, come sottolinea De Napoli. Era l'anno giusto, lo capivamo perché nello spogliatoio c'avevamo l'allenatore giusto, perché mi ricordo che Bianchi, quando io mi sono allenato con Bianchi, quando lui allenava Maradona veniva sempre a allenarsi con Bianchi, e questo fu importante anche per il gruppo. Vedere sempre Maradona ai campi, allenarsi, era troppo importante. Allora lì ha detto tutti quanti, pensavamo che quest'anno è l'anno buono, e così veramente vincemmo un campionato favoloso, perché la gente fa proprio impazzita, tutto Napoli impazzita. Un'armonia che poi si spezzerà, malgrado il successo nella Coppa UEFA di 2 anni dopo. Il secondo scudetto azzurro, ancora nel nome di Maradona, vedrà protagonista sulla panchina Alberto Bigon. Dieghito lascerà i partenopei dopo la squalifica per doping del 1991. Ma ancora oggi, il re di Napoli è lui. Ho visto Maradona, ho visto Maradona,